La procedura per ottenere l'indennità per ogni ritardo teoricamente si dovrebbe essere semplificata. Sì, allora se partiamo dalle novità, quella principale e positiva è che l'indennità di ritardo adesso contemplano anche i treni regionali, che fino all'anno scorso invece ne erano esclusi, a parte i pendolari con abbonamento eccetera, però il biglietto singolo adesso può essere indennizzabile. Per quanto riguarda le procedure, si differenziano tra regionali e nazionali naturalmente. Nazionali diventano semplicissime: una volta che si sa che il treno realmente ha maturato ritardo a causa delle ferrovie dello Stato, per cui è indennizzabile, si va col semplice biglietto in biglietteria e si può decidere se avere denaro contante o avere uno sconto su un futuro biglietto. Quindi intanto diciamo la novità più importante è il fatto che si può essere rimborsati anche con il contante. Fino a questo momento non era possibile, perché proprio al massimo avevamo ricevuto un bonus per appunto un altro viaggio, quindi un altro biglietto in sostanza. Per i regionali è un altro filo un po' più lunga, perché bisogna compilare un modulo, mandarlo alle ferrovie allegando il biglietto, che deve essere, questo è importante, pochi lo sanno, deve essere obliterato non solo alla partenza ma anche all'arrivo in caso di ritardo, se no non si avrà diritto al bonus. Dopodiché le ferrovie ti risponderanno se è indennizzabile oppure no. Quindi per il treno regionale addirittura dobbiamo obliterare, quindi dimostrare l'orario a cui siamo arrivati, proprio per documentare al meglio il ritardo che ha interessato il nostro percorso di viaggio. Come controllare il ritardo dei treni? Un'altra domanda che volevo farti è, beh, naturalmente diciamo che i percorsi sono tutti quanti abbastanza schedulati. Io mi ricordo che a me molto spesso è capitato, prendendo frequentemente in passato il treno, di dover dimostrare alle ferrovie che il treno era arrivato in ritardo. Non avevo dovuto mai fare però particolari procedure, bastava mandare all'ufficio clienti appunto questo biglietto e il bonus mi è stato riconosciuto in automatico. Paola, adesso cambia qualcosa? Non è che cambi niente, nel senso che se hai diritto comunque te lo rimborsano, però loro dopo 20 giorni dall'arrivo del treno, in teoria tu potresti entrare su internet e vedere se quel treno ha effettivamente maturato il ritardo per l'indennizzo, perché se è un ritardo che non è a causa delle ferrovie dello Stato, per cui è per cause esterne, loro non lo contemplano. E certo, se il treno si è bloccato perché, che ne so, un'intensa nevicata ha interessato la zona di percorrenza, è chiaro che le ferrovie si disinteressano evidentemente a queste situazioni. C'è anche una possibilità per chi paga con carta di credito eventualmente di non farsi rimborsare né col contante né con un altro biglietto, ma di farsi riaccreditare l'importo sulla carta, mi pare, vero? Sì, anzi, bisogna proprio fare in questa maniera: se si ha acquistato online con carta di credito o call center tramite carta, si rimanderà una mail e dopo loro riaccrediteranno sulla carta di credito. Ah, ho capito, quindi se ho acquistato in sostanza in contanti mi rimborsano con il contante o con il bonus, se ho acquistato con la carta il rimborso avviene attraverso il riaccredito sulla carta di credito.